15 anni mollavo la scuola. Vaffanculo. In bocca una canna che poi sarebbe stata la mia condanna. Sveglia le sta in tribunale con mamma. Rischio di prendere più del dovuto, perché al giudice non sono piaciuto. Con l'avvocato d'ufficio che manco sa come mi chiamo e sarebbe d'aiuto. Sembra che va tutto male, legge incostituzionale. Non protegge, cerca di non farmi più suonare. Mai. 40 grammi sono il mio uso personale. Lo uso per scrivere, lo uso per volare via. Dalla patria, dalla macchina della polizia. Cambio la via, se non finisco in cardiopatia. I miei fratelli in strada non stanno messi bene. Scappano dal canto delle sirene. Epicante i tempi di oggi. Riduce ad una foto i sentimenti nostri. Ci odia senza mezzi costi. Tu chiamami se senti mostri. Chiamami se senti mostri. Tu chiamami se senti mostri. Tu chiamami se senti mostri. Che se ci sto ti vengo a prendere. Nonostante tutto, oh, oh, nonostante tutto. Nonostante tutto, oh, oh, nonostante tutto. A 26 anni ho già fatto la storia. Ho regalato più dischi di quanti ce n'ho in memoria. Cerco la gente, non cerco la gloria. Frate, non faccio lo sponsor. Faccio lo stronzo. Per quelli che rubano c'ho scritto non ci pensare sul pozzo. Tanto non basta fare il minimo. Sono 12 anni che mi sacrifico. Spacco dal vivo, però dammi l'anticipo. Il corpo di ferro ormai piango l'acrilico. Questi li piego fra come Quasimodo. Contro la merda conosco l'antidoto. Tu dammi il fumo, non voglio l'ossigeno. Aspiro fin quando mi cambia lo zigomo. Lascio una barra vuota. Così sai che anche se taccio viaggio in alta quota. Faccio un'altra traccia che ti manda a ruota. Stampo la mia faccia sulla banconota. Gemitais dei tempi di oggi. Levo i loro nomi e poi ci metto i nostri. Passa dai. Di odio senza mezzi costi. Fanculo. Chiamami se senti mostri. Chiamami se senti mostri. Tu chiamami se senti mostri. Chiamami se senti mostri. Che se ci sto ti vengo a prendere. Nonostante tutto, oh, oh. Nonostante tutto. Nonostante tutto, oh, oh. Nonostante tutto.